Esercizio 4. Ascolta e ripeti le frasi dell'esercizio 3. Giorgio è un caro amico. Il faro è spento. Rosso di sera, bel tempo si spera. D'inverno rimetto i fiori in una grande serra. Ieri ero a casa. Vieni a trovarmi, passeremo una bella serata. La serrata è uno sciopero di negozianti. Il carro serve per trasportare merci. Aspettami, corro subito da te. Il farro è una varietà di frumento. I cantori di Assisi sono un coro famoso nel mondo. Se non erro, il libro è del 2005.